Voi siete a giovine col tempo. O più andate, ventendo, ma è impossibile, lui sono amor, follia. Sia pure, ma volubile, sovente l'uomo. Pensateci, ne siete in tempo a ne corri, e io che ispiro giovine, e io che ispiro giovine, e io che ispiro ai detti a ne ceri. Piangi, supremo il becco, supremo. il suo sacrificio, coro ti fiego, sento nell'anima, ciò è tue pene, coraggio il nome il tuo cuore, vincerà, ed il cuore vincerà. Sì, bella e pura. Sì, supremo il pecco. Pura vittima. E sacrificio per la sventura. Un'opera così nobile, sarete fiera allora. Sì, sì, sì. un'opera così no, un'opera così no, sarete fiero. Che fai? Nulla! Scrivevi? Sì, no! Al turbamento, a chi scrivevi? A te! Dammi quel foglio! Per ora! Mi perdona, sono io preoccupato! Non sei mio padre! Lo vedesti? Ah no, se vero scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerà in vederti! E qui non mi sorprenda, lascia che m'allontani, tu lo colma, ai piedi suoi mi getterò, tu mi fai più, non ne vorrò, sarei infelice, sarei infelice, perché tu m'ami, Alfredo, tu m'ami, non è vero, tu m'ami, Alfredo, tu m'ami, Alfredo, non è vero. Manco! Perché piangi? Di lacrime a me d'uomo, or son tranquilla, lo vedi, mi sorrido, lo vedi.